Le ragioni dello sciopero sono semplici. I lavoratori della GDO, quindi grande distribuzione organizzata, non hanno un contratto perché il loro contratto è scaduto nel 2013 e le aziende si rifiutano di rinnovarlo. È una giornata particolare quella del 22, perché siamo nel picco, diciamo, degli acquisti di Natale, è una forma di protesta molto dura, insomma. Sì, decisamente. Sappiamo benissimo che il 22 è una delle giornate più altovendenti per la grande distribuzione organizzata, il venerdì prima di Natale. Ma noi non ci spaventiamo rispetto a questo. I lavoratori sono disposti, diciamo così, a fare forti sacrifici perché immaginate anche la pressione che avranno da parte delle aziende per far sì che non scioperino. Però abbiamo messo in campo questa misura forte che viene dopo altre ben 24 ore di sciopero degli anni, cioè nell'anno scorso, diciamo così, sempre sui termini del contratto, perché ormai la misura è colma. L'atteggiamento delle aziende, soprattutto delle aziende di Federdistribuzione, perché dobbiamo ricordarlo che una parte del commercio ha rinnovato il contratto già nel 2015, mentre c'è questa parte che si chiama Federdistribuzione che arbitrariamente ha deciso che non vuole applicare un contratto e che non ha bisogno di un contratto collettivo. Quindi la misura è colma, per questo chiamiamo di nuovo i lavoratori alla lotta. 4 anni senza contratto, quali sono i punti principali su cui la controparte non vuole sentire ragioni? Beh, i punti sono plurimi, c'è un fattore economico, ossia le aziende tramite il mancato rinnovo del contratto le aziende di Federdistribuzione stanno facendo dumping contrattuale, ossia stanno risparmiando banalmente sul costo del lavoro, per cui un'azienda aderente a Federdistribuzione rispetto a un'azienda aderente a Confcommercio, complessivamente in una tornata contrattuale si risparmia quasi 2 stipendi da dare ai lavoratori, per cui c'è un primo elemento che è economico. Dall'altra parte le aziende di Federdistribuzione mettono proprio in discussione lo strumento stesso del contratto collettivo, per cui pensano che si può fare tranquillamente a meno di una contrattazione collettiva in questo settore. Per cui questa lotta, diciamo così, parla all'intero mondo del lavoro, è una lotta che parla appunto del bisogno di riaffermare la contrattazione e che parla che chi fa lo stesso lavoro deve avere gli stessi diritti e deve avere lo stesso salario sostanzialmente. Questi anni abbiamo visto che settori come quelli della logistica e come quelli della grande distribuzione sono quelli dove magari i diritti sono venuti meno o comunque dove le aziende cercano sempre di risparmiare sul costo del lavoro. Sì, decisamente sono in quei settori dove per una serie di peculiarità del settore stesso, pensate a differenza di una fabbrica, un'azienda appunto della grande distribuzione organizzata magari ha 8.000 dipendenti però sparsi su 600-700 punti vendita, per cui c'è anche una forza minore dovuta proprio alle dimensioni stesse dell'azienda. Dall'altra parte le normative che in questi anni si sono susseguite, non solo quelle contrattuali, diciamo così, ma anche quelle legali, basti pensare al Job Act, con l'eliminazione di qualsiasi limite, diciamo così, ai contratti a termine, dalle aziende, sia della logistica, ma appunto anche della grande distribuzione organizzata, per quella di cui mi occupo io, sono state pienamente sfruttate. Per cui oggi le aziende utilizzano tutte le leve della normativa per abbassare la qualità del lavoro e per dividere i lavoratori. C'è poi anche la questione della liberalizzazione, insomma, che è ancora lì. La liberalizzazione, diciamo così, che è un fenomeno che parte dal 2011. È un fenomeno che oggi sta mostrando il suo volto peggiore. È un fenomeno, diciamo così, che vede il profitto e questo presunto servizio al cliente, all'andare dietro al bisogno del cliente come valore assoluto, per cui aziende come appunto l'IKEA si permettono di licenziare lavoratrici madri di figli disabili solo perché non riescono, diciamo così, a conciliare la propria vita con gli orari imposti di apertura. Quindi sì, c'è proprio un tema di aperture contro i diritti e contro l'umanità stessa delle persone. Sappiamo che con la crisi economica i consumi si sono contratti, qual è la situazione attuale? È tale da giustificare un mancato adeguamento salariale? No, assolutamente. Ci sono aziende che durante la crisi economica hanno guadagnato. Per citarne una, l'Esselunga, durante gli anni della crisi dal 2008 a oggi ha avuto sempre crescite, cioè a 3 cifre, per cui ha avuto attivi importanti, ha raddoppiato la propria rete di vendita, per cui non è pensabile ad esempio appunto un'azienda come quella di cui citavo prima, no, appunto Esselunga, non adegui i salari o non riconosca il contratto collettivo nazionale. La crisi purtroppo viene sempre utilizzata per colpire i più deboli, per abbassare i livelli dei più deboli. Dal nostro punto di vista, ora che in realtà i dati dicono che c'è un cambio di tendenza anche rispetto ai consumi, presentiamo il conto e diciamo che è ora di rinnovare i contratti. Come si svolgerà nel nostro territorio lo sciopero? Allora, lo sciopero in questo territorio innanzitutto è stato stabilito di 8 ore, quindi l'intero turno di lavoro, e prevederà anche un corteo che partirà dal punto vendita della Despar di via Mascherino, ossia davanti in via Stalingrado. Abbiamo scelto quel luogo come luogo simbolico dei nuovi insediamenti del commercio su Bologna, un nuovo tipo appunto di imprenditorialità che ha i profitti come valore unico senza pensare appunto alle persone. Un punto vendita è un'azienda che si è contraddistinta nel recente passato anche da attività antisindacali, per cui partiremo da Despar per poi arrivare sotto la Lega della Cooperativa, quindi insieme, per tenere insieme appunto il mondo del commercio privato con quello della cooperazione, perché vorrei ricordarlo, quel giorno sciopera anche la cooperazione, perché la cooperazione al pari del privato non rinnova i contratti e si sta comportando esattamente come i privati, pur vantando diciamo così un primato etico che all'ultimo non c'è più.